4B. Ascolta e rispondi. Leggi spesso? Sì, leggo spesso. Piangi spesso? Sì, piango spesso. Corri spesso? Sì, corro spesso. Cadi spesso? Sì, cado spesso. Vinci spesso? No, non vinco mai. Sorridi spesso? No, non sorrido mai. Scrivi spesso? No, non scrivo mai. Rileggi spesso? No, non rileggo mai.